Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Allora entro per prendermi un caffè e poi vado verso il bagno, che è una fermata obbligata per chi guida in autostrada. E lei la trovo là, seduta dietro a un tavolino. È la guardiana dei bagni, quella che pulisce il disastro lasciato da centinaia di automobilisti. Sul tavolo, di fianco ai fiori che si è messa per diminuire lo squallore del posto, c'è il piattino con piccole monete per la mancia, quasi delle elemosine. Mi chiamo Maddalena Ronco, vivo a Morisengo, un bellissimo paesino sulle colline del Monferrato. Sono sposata da oltre 40 anni con Giancarlo, siamo sbarcati 7 anni fa in questa collina e abbiamo dato una svolta alla nostra vita, abbiamo aperto un bed and breakfast. Che cosa ha a che fare una ragazza che pulisce i bagni in un autogrill con Alessandro Magno? La puntata di oggi racconta una cosa per dirne un'altra. La puntata di oggi parla di una bella ragazza che fa un lavoro che nessuno di noi si aspetterebbe che facesse, per il semplice fatto che c'è una cultura millenaria che si mette tra noi e l'immagine che abbiamo di lei. Parliamo di eroi oggi e di come gli eroi siano sempre giovani e belli e buoni e giusti. Al contrario, gli antieroi siano cattivi, magari sporchi, brutti e maligni. Per fare questo, fate una prova. Provate a pensare ai protagonisti dei vostri romanzi preferiti o delle storie che vi raccontavano sin da quando eravate bambini. Se vi piacciono quei personaggi, se quello che fanno è buono e se magari voi vorreste diventare come loro, sicuramente nella vostra testa sono uomini alti, affascinanti o donne belle e intriganti. Il gioco della puntata di oggi è proprio quello. È quello di provare a scardinare queste convinzioni. Sul profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia, io sono qui, da stamattina tutti quelli che lo frequentano stanno caricando le foto dei loro eroi, spiegando il perché. Vediamo se i nostri eroi sono davvero, sempre, giovani e belli. Sono le 16:09, questa è Radio 24 e io sono Matteo Caccia e la risposta a questa domanda sembrerebbe proprio essere sì. Gli eroi sono sempre giovani e belli. Se andate in questo momento, io ci sono... sulla pagina di questo programma, che appunto è Matteo Caccia, io sono qui, le persone che la frequentano hanno caricato appunto le foto. Ve le descrivo e vi leggo i motivi velocemente, no? Gianluca è, l'eroe di Gianluca è Peppino Impastato. Peppino Impastato aveva una bella faccia con questi capelli sparati in aria, questa barba e questo volto giusto, buono. Luca, il mio eroe è Ayrton Senna. Ayrton Senna era un uomo di una bellezza quasi folgorante. Secondo Armando, il suo eroe è Bernard Moitessier, che era appunto un navigatore, un uomo che scopriva oceani e terre inesplorate, un uomo che alla fine di un giro del mondo, prima di tornare a casa e di mettere i piedi a terra, decise che non ce la faceva stare tra la gente normale e sta in mare per un altro anno. Per Roberto invece l'eroe è David Petraeus, la cui rivoluzionaria tattica antiguerriglia ha posto fine alla presenza di Al-Qaeda in Iraq. Questo speriamo, Roberto, poi non so, tant'è, comunque ognuno c'ha il suo eroe e non a caso infatti io questa mattina avevo pubblicato lanciando questo gioco, no? Del fatto che vediamo se i nostri eroi sono giovani e belli e se quell'iconografia lì risponde realmente a quello che abbiamo in testa, e ho caricato una foto di José Mourinho per motivi che chi semplicemente ascolta questo programma o chi tifa una squadra con i colori nerazzurri può facilmente immaginare, e diciamo non è stato molto apprezzato, non solo dai non interisti, proprio in generale, perché evidentemente gli eroi devono avere delle figure che siano moralmente ed eticamente più alte rispetto a uno che semplicemente fa l'allenatore di calcio. Ma tant'è, ognuno c'ha un po' i suoi eroi, giusto? E soprattutto ognuno c'ha i suoi eroi, che siano o meno giovani e belli. E la puntata di oggi, come vi dicevo prima, è un po' particolare per questo motivo qui, perché la storia che ci ha mandato Maddalena racconta di un piccolo episodio avvenuto in un autogrill sull'autostrada. La sensazione che però abbiamo avuto quando abbiamo letto questo racconto era che era perfetto per provare a raccontare quell'idea lì, no? Che quando pensiamo a una cosa, a un personaggio che ci piace e che in qualche modo è eroico, è quasi sempre bello, non è mai un uno storpietto, no? Non ha mai una gamba più corta dell'altra, o magari la gobba. Matteo Caccia, io sono qui al profilo Facebook del programma. Se avete voglia, giocate a questo gioco. Caricate la foto del vostro eroe su questo profilo e spiegatemi il perché. E vediamo che cosa accade alla fine. 349-238-6666. Vale anche non mandare le fotografie, ma scrivere di chi si tratta e il motivo per cui, secondo voi, lui è il vostro eroe. Questa è la storia di Maddalena e del suo antieroe. Quella ragazza tagliava il gambo alle rose con delicatezza, quasi temesse di ferirle. Formava un bel mazzo che teneva con garbo tra le mani. Vestiva in modo molto semplice, sopra pantaloni e magliette chiare, e portava una camicia da inserviente, ma ciò non le toglieva la raffinatezza. Io stavo sistemando i quadrifogli che mio marito mi aveva appena portato, perché lui riesce sempre a trovare i quadrifogli in un prato, sempre. E poi me li regala perché portano fortuna. E ogni volta è così. Io li prendo, li sistemo a foglie larghe tra le pagine di un libro e poi, all'occasione giusta, li regalo a chi voglia aiutare ad avere fortuna. In quell'autogrill non ci siamo mai più capitati e non capisco perché. Come se fosse stato una parte della mia vita che è successo quella volta e poi non è più successo. La cosa bella di quel momento era che abbiamo fatto anche un corso per aprire il bed and breakfast. Era un periodo molto bello per me, oserei dire felice, anche se mi rendo conto che la parola felice è molto impegnativa, e avrei voluto che tutti fossero felici. Lei mi passa accanto mentre sto allargando le foglie dei quadrifogli, si ferma e con timidezza mi domanda dove li ho trovati. Quando glielo dico, lei si sorprende, mi dice che lei lo ha davanti tutti gli occhi, tutti i giorni, quel prato, e non li ha mai visti. Forse non si è mai fermata con calma a cercarli, provo a dirle. E le racconto della mania di mio marito e della sua attenzione e della sua pazienza. Lei sorride e se ne va, augurandomi buona fortuna con il suo mazzo di rose in braccio, quasi di corsa, un po' schiva e timorosa per aver avuto questo approccio. Allora io entro per prendermi un caffè all'autogrill e poi vado verso il bagno, che è una fermata obbligata per chi guida in autostrada. E la trovo là, seduta dietro a un tavolino. Quella ragazza, bella e affascinante, era la guardiana dei bagni, quella che pulisce il disastro lasciato da centinaia di automobilisti. Sul tavolo, di fianco ai fiori che si è messa per diminuire lo squallore del posto, c'è il piattino con piccole monetine per la mancia, quasi delle elemosine. Io mi sono sempre rifiutata di dare la monetina all'uscita. L'ho sempre trovata una pratica offensiva e umiliante, sia per chi la riceve, ma pure per chi la fa. E mentre le passo davanti mi chiedo perché una ragazza giovane, così raffinata, così garbata e bella, si sia adattata a fare la custode delle toilette. Perché non ha guardato bene in quel campo di trifogli? Perché non ha avuto pazienza e costanza per cercare il suo quadrifoglio? Niente, non mi do pace. Scatta in me una ribellione. Io devo fare qualcosa e vorrei che scattasse in lei la stessa ribellione. Il fatto che lei raccogliesse le rose, che cercasse di cambiare il suo ambiente, è perché lei non era assolutamente adatta a questo ambiente. Lei doveva cercare quello adatto a lei, cosa che dovremmo fare tutti. Mi sono un po' sentita un po' al suo posto, diciamo, no? Ma perché non prendi il coraggio a quattro mani e prendi la vita in mano e fai qualcosa di più adatto a te? Apro la borsa, prendo una banconota da 50 dal portafoglio e gliela metto tra le mani. E le dico che lei si merita molto di più della vita. E la prego di accettarli quei soldi, di non offendersi. Perché se oggi per me è un giorno fortunato, vorrei che lo fosse anche per lei. La ragazza si ritrae, arretra, toglie le mani, arrossisce, sbarra gli occhi e balbetta. Io le dico di prenderli, che sono il suo quadrifoglio. Poi esco di corsa, salgo in macchina e dallo specchietto la vedo. È uscita pure lei, mi saluta, ha una rosa in mano, ma non può più raggiungermi per donarmela. E allora la sento che urla a gran voce buona fortuna. Mio marito, seduto alla guida, mi guarda e mi dice: che persona gentile, dovevi donarle un quadrifoglio. I was in the kitchen on my own, making chili. You came in with Dyson, red in water. Through my goggles I can see your hands, wrinkled like an old man's. Come over, give your heart to me. Quando ho letto il racconto di Maddalena mi sono venute in mente un sacco di cose. La prima è che dovrò passare molto più tempo a guardare bene nei prati, perché anche io voglio trovare dei quadrifogli ogni tanto. E se ci vuole solo pazienza e attenzione, posso provarci. Poi, tra l'altro, a pensarci bene, quello di pulire i bagni è assolutamente un lavoro come un altro. Cioè, se voi trovate il bagno sporco in casa vostra, cosa fate? Non lo pulite? No, certo che sì. E se avete degli ospiti a cena che vanno in bagno, non è che gli chiedete di pulire il water prima di andarsene. No, lo fate voi. E se avete i soldi, lo fate fare a qualcuno che non vi faccia perdere tempo e non vi faccia sporcare le mani. Però, di fatto, quando trovate il bagno pulito, siete delle persone felici, no? Ecco, poi mi è venuta in mente un'altra cosa. Ed è una cosa che mi sta un po' qui, vedete? Proprio qui. E mi sta qui perché non ne vado particolarmente fiero. Però fa parte anche di me. E non posso negarla, semmai posso provare a capirla. Facciamo così, per spiegarvela vi propongo un gioco. È un gioco semplicissimo, eh? Basta ascoltare queste brevi istruzioni che vi do. Ok, allora, adesso concentratevi un attimo e liberate la mente da altri pensieri. È proprio un gioco sull'immaginazione. Allora, ci sono le persone normali e le persone speciali. Ci sono i vigliacchi e ci sono i coraggiosi, i buoni e i cattivi. Ci sono i condottieri e la carne da macello, i soldati della truppa, la fanteria e quant'altro. Ok, ora tocca a voi. Provate a immaginarvi un soldato della truppa. Uno un po' vigliacco, vagamente malvagio. L'avete immaginato? Ok, mettetelo da parte e fate spazio. Ora provate a immaginarvi un eroe invece, un capo, un condottiero, coraggioso e fondamentalmente buono. Ce l'avete in mente? Più o meno, eh? Ottimo. Ora metteteli a confronto. Scommettiamo che il primo, il soldato, vi è venuto fuori un po' gobbo, scuro nell'abbigliamento, magari sporco e sicuramente brutto. E il secondo, invece, il condottiero, è venuto fuori alto, probabilmente biondo, luminoso, bello, fiero. È così, no? Ok, se è così, non spaventatevi. E non sentitevi cattive persone. Perché è normale che succeda così. Non lo so cos'è, deve essere un retaggio della nostra parte animale, quella che ci fa credere che chi ha dimensioni grosse, potenti, chi ha tratti gradevoli, può essere più capace a proteggerci e ci ricorda i nostri genitori. E poi c'è un fatto culturale, credo, e tutto il nostro modo di pensare poi alla fine discende da Platone, che diceva che tutto ciò che è bello è anche vero ed è buono. E l'eroe è l'insieme del bello, vero e buono. E quindi gli dei pagani erano tutti meravigliosi, come le statue che li ritraevano. E col passare dei secoli nessuno ci ha mai tolto questa opinione. Non so, avete mai pensato, avete mai visto un quadro in cui ci sia Gesù o Dio in persona che non siano disegnati come figure in qualche modo attraenti? Avete mai visto una Madonna bassa, grassa? I cattivi sono brutti e i brutti sono cattivi. Ce l'abbiamo nella mente, ce l'abbiamo nel cuore, non ci possiamo fare nulla. Per fortuna poi siamo dotati di un cervello, quindi possiamo ragionarci. Però il nostro primo impulso rimane violento e decisivo. Ma c'è anche di più. Infatti è ormai diventata nostra convinzione che nella società moderna i lavori migliori debbano essere automaticamente compiuti da persone belle. E che a rimestare nei rifiuti debbano invece essere i più sfortunati, i più brutti. E ci sorprendiamo, no? Io per primo. Se vediamo una bella ragazza che lava i bagni. Come se, non so, nel caso fosse stata meno avvenente e magari pure un po' antipatica, allora quella sì che sarebbe stata una combinazione corretta. Per cui il bel ragazzo fa il calciatore, fa l'avvocato, fa il dirigente d'azienda, quello brutto invece fa lo scaricatore di porto, fa il muratore, fa il camionista. La bella donna fa la manager, oppure ha un negozio di abbigliamento, o fa la giornalista. Quella brutta fa la portinaia, fa l'operaia, fa la lavapiatti. Questo è quello che pensiamo. E possiamo anche far finta che non sia così, ma è solo sforzandoci che la possiamo vedere in maniera diversa. È nella nostra natura ormai, e nessuno è innocente, io ci casco per primo. E più me ne pento, e peggio mi sento. E ce ne sono un sacco di fotografie di eroi sul profilo del programma Matteo Caccia, io sono qui, ve ne dico alcuni. C'è una foto di Villeneuve, Carlo, il canadese volante, perché Imola ha rispettato i patti della scuderia, ma sentendosi tradito da Didier non se l'è tenuto dentro, di modo del tutto inconsueto lo ha detto al mondo. Avevo 18 anni l'8 maggio dell'82 e con Gilles se n'è andata anche la mia infanzia. Renato, Falcone Borsellino, Irene, bassa, brutta e zoppa, è la mia eroina, internazionalista, pacifista, profetessa e vi mando qui. Vabbè, Rosa Luxemburg. Roberto, va bene, ci fai complimenti? No. Emilio, beh, questa foto è magnifica, Emilio. C'è è una pista da bowling, cioè quindi sono i birilli in fondo, c'è il punteggio in alto sul televisore e la foto di un signore sui 60-65 anni, capelli bianchi, ed Emilio scrive: "Eccolo qui l'eroe, mio papà che dopo 15 anni di bowling all'età di 74 anni ha realizzato un 300". Grande. 349-238-6666. Credetemi, mi scrive qualcuno che non si firma, trovare quadrifogli è una cosa genetica. Mia moglie e mia figlia li trovano senza guardare. Io ne ho trovato uno un po' marcio. Chiediamo alla Maddalena. Pronto Maddalena? Eccomi. Ciao, come stai? Ciao Matteo, io sono qui. Grazie, e anch'io, quindi noi siamo qui. Questo è il titolo del programma dell'anno prossimo, però vabbè, lasciamo stare, ne parliamo poi. Maddalena, senti, è una cosa genetica quella di trovare quadrifogli? Tuo marito li trova ossessivamente? Guarda, non credo proprio, perché tra l'altro ti dico, ti ho raccontato, quell'anno era un anno molto particolare. Uh-huh. Anche nel nostro giardino tanti quadrifogli. Dopo quell'anno non abbiamo più trovato quadrifogli. Ma forse perché avevate altro da fare. Raccontami l'esperienza del bed and breakfast, perché mi pare di capire che questo episodio è legato a quello, no? Cioè tu hai fatto questo incontro in quell'autogrill. Da dove arrivavate e come siete arrivati al bed and breakfast? Arrivavamo da Roma, dove noi andiamo ogni tanto a trovare nostro figlio che vive a Roma, quindi ogni tanto sbarchiamo là, ci insediamo a casa sua e poi torniamo, andiamo e torniamo, quindi questa è una strada che facciamo, diciamo, 2 o 3 volte l'anno. Sì, però tu Maddalena non sei di delle Langhe, no? di Morisengo, che anzi io non sono di Morisengo, io sono nata a Trino, Trino Vercellese, in mezzo alle Resaie, pianura padana. Certo, proprio. In mezzo alle Resaie, al nucleare anche. Esattamente, bravissimo, conosci bene. Beh, sì. Tu di quella zona, vero? Sì, insomma, Novarese, quella zona lì. Ho letto la tua biografia. Senti Maddalena, ma quindi tu sei originaria del posto dove hai aperto il bed and breakfast alla fine? No, io sono originaria di Trino, ma 7 anni fa abbiamo fatto questa svolta, questo cambiamento di città, casa, lavoro, amici, anche se gli amici più fedeli te li porti dietro. Sono ma quindi scusami, vi siete licenziati, sì, o avete chiuso le vostre attività? Licenziato, diciamo che siamo arrivati quasi all'età della pensione, io diciamo che è un'età anagrafica, non me la sento, cioè l'età è solo un numero, certo. Io non me la sento questa età. E quindi ho avuto questa voglia di aprire il bed and breakfast. E ma non avevate esperienze alberghiere prima? No, proprio no, una cosa niente, nuova. Niente. E quante stanze ha il bed and breakfast? No, ne solo due. E siete solo tu e tuo marito? 4 persone sono ospiti da noi. Uh-huh. E quindi anche loro si trovano molto bene, perché è come se fossero a casa loro. Immagino, dimmi come si chiama e dov'è con esattezza. Si chiama Weekend Dock, sì. che deriva dal Weekend Dock, sì. Come il vino Dock, okay. Weekend Dock, e si trova a Morisengo. Ecco. Maddalena, senti, io purtroppo devo chiudere, che devo dare la linea alla borsa. Qual è il tuo eroe però? Ecco, sai che mi hai fatto pensare molto. Io da giovane ne avevo molti di eroi, scrittori. Da più piccola, che so, il Garrone del Libro Cuore. Dimmene uno volante. Uno volante no, sono quelli che sono le mie amiche, cioè, sono quelli attuali del giorno d'oggi che mi circondano. Ok, le persone vicine insomma. Le persone vicine, quelle che hanno tanto problemi e che riescono ad affrontarli, a superarli, ad affilare coltelli tutte le mattine. Viva! Evviva, vanno avanti la vita. Devo salutarti perché c'è Deborah Rosciani che bussa alla porta, alla finestra. Dai. Se non è lei, chi deve fare la borsa? Maddalena, grazie ancora per il grazie tuo racconto e in bocca al lupo per il bed and breakfast. Margherita. Ciao. Saluto tutti, ciao, grazie. Ciao. Margherita è la nostra redattrice che di là è, che saluta in diretta. Adesso la borsa, chiunque sia, e poi voi siete qui. Voi siete qui. qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. La foto che ci ha mandato Maddalena dimostra che ha ragione lei e che l'età è solo una questione anagrafica. È una bellissima signora insieme al suo cane, di cui ha lo stesso colore dei capelli, peraltro, dalla foto. Nel senso che il cane credo sia un golden retriever e lei ha dei bei capelli rossi che evidentemente vanno dallo stesso parrucchiere. Alle sue spalle c'è il mare, ci sono dei faraglioni, credo, o scogli, banalmente. Secondo me, così a naso, è Portofino. Tira un po' di vento perché il mare è increspato e c'è un sole meraviglioso. Eroi tutti giovani e belli sul profilo Facebook del programma Matteo Caccia, io sono qui, ve ne elenco alcuni velocemente. Per Mariana il mio eroe lo è e sarà sempre per questa splendida donna, Laura Pausini. È pur ricca ma riesce ad essere umile, dando una lezione di vita a tutti noi. Laura Pausini, c'è la foto di Laura Pausini e una scritta: perché con te ho imparato che felici lo si è. Aspetta un attimo, mi avvicino perché non vedo. Perché con te ho imparato che felici lo si è senza bisogno di un miracolo. A me basta il tuo sorriso. È una canzone questa di Laura Pausini, immagino. E poi ancora, secondo Elisa, è Tina Merlin che si è battuta con la forza di una leonessa contro i poteri superiori e superiori a lei e allo Stato per salvare i paesi minacciati dalla diga del Vajont. Per Claudio è Chris McCandless. Chris McCandless è protagonista di Into the Wild, il libro e il film, la storia vera di questo ragazzo che mollò tutto per andare in Alaska, credo, no? E ci rimase purtroppo. Secondo Daniele Buschiazzo è Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, ucciso in un agguato tempo fa. E poi ancora Goldrake e poi Dean Kuntz, non so assolutamente chi sia Dean Kuntz. Per Ester è il mio eroe da più di 20 anni. È uno scrittore, sì, ma è qualcosa di più. L'eroe di Doni è Dottor Sorriso. L'eroe di Francesca è Yoda dal Ritorno dello Jedi. Aspetta, ce n'erano alcuni divertenti. Ayrton Senna come se piovesse. L'eroe di Michela è Mafalda. E poi ancora, beh, questo che salta a 2 metri di altezza e la mette nel canestro è chiaramente Michael Jordan. Poi ancora qualcun altro al volo. State lì che ce la posso fare. L'eroe di Antonella è non mette il nome. Vive con Homer ed è un'eroina. La moglie di Homer Simpson. Oh, Marge Simpson. La moglie di Homer Simpson. Poi ancora Gaetano Scirea. Anche se ucciso da Achille, il mio eroe è Ettore. Troppo facile essere eroe e figlio degli dèi. Ettore invece era un uomo. Pepi da Bergamo. Pepi, guarda, mi dai il destro proprio perché per concludere questo gioco, il gioco del ma gli eroi sono veramente tutti giovani e belli, noi abbiamo preso quello che probabilmente dopo Ettore e Achille è il top, è nella top 3 degli eroi assoluti, che è Alessandro Magno. Alessandro Magno era appunto un personaggio che non era figlio degli dèi, era un uomo normale e tutti se lo ricordano o se lo immaginano come alto e bello, ma non so se era veramente così. Alessandro nacque a Pella il 20 luglio del 356 a.C. Ebbe come maestro il filosofo Aristotele, da cui Alessandro apprese l'amore per la medicina, per la filosofia e per la letteratura. Dimostrò ben presto un carattere inflessibile, desideroso di gloria e di fama, ma mitigato da un forte senso del dovere. La moderazione, la lealtà e il coraggio sono altre doti che i biografi gli attribuiscono. Il giovane Alessandro, divenuto re, seppe subito consolidare le conquiste paterne e rivolgersi a un grande progetto: condurre una spedizione di Greci e Macedoni contro la Persia. Nel 334 a.C. passò in Asia Minore per un'impresa che lo impegnò per 10 anni, fruttandogli il titolo di re dell'Egitto, re di Babilonia, re dei Persiani e un regno che dalla Macedonia si estendeva fino all'Indo. Per queste gesta i posteri lo chiamarono Alessandro Magno. Giunto a Babilonia di ritorno dalla spedizione all'Indo, fu colpito da gravi febbri, forse frutto di una ferita che gli aveva provocato lesioni polmonari. Morì il 13 giugno del 323 a.C. Aveva 33 anni, lasciando la moglie in attesa di un bambino. Dopo qualche mese sarebbe nato il suo erede, Alessandro IV. L'iconografia di Alessandro Magno era già sterminata quando egli era ancora in vita. Statue, terracotte, mosaici, monete, monili riproducevano il grande sovrano che, come gli eroi omerici, sarebbe stato ritratto per i secoli a venire. Ma la sorpresa sta proprio qui, sta proprio nel suo aspetto reale. Alessandro Magno, infatti, non raffigurava il tipico eroe. Era di statura bassa, più piccolo dell'amico Efestione, ma anche delle mogli. Aveva lunghi capelli ricci dalla tipica scriminatura centrale, che incorniciavano un volto irregolare. Occhi, naso e orecchie erano particolarmente grandi rispetto alla bocca, piccola e distante dal mento. Secondo alcuni storici, gli occhi erano di diverso colore, nero il destro, azzurro il sinistro. Assolutamente caratteristici, pervenuti da alcuni affreschi pompeiani tratti da originali greci, erano l'acquosa brillantezza dello sguardo e la leggera torsione a sinistra del collo. Un difetto fisico congenito, che però non era d'impaccio alla grande resistenza fisica. Robin Hood is breaking up his merry men, Stag Lee is changing up his story and jumping over tables to get close to her. That's not the sign of a philosopher. Remember all the days before he cast his net, as hungry as he's never seen the doctor yet. And every good protection that he's ever known, it's never been a pleasure as the pressure grows at him. Questo messaggio rispondo prima a Guido. Ciao, ma la posta la filtra tutta Margherita? Se lei non approva, tu non leggi nemmeno, così per sapere. Guarda, Margherita, più che filtrare la posta, la prende e stampa i racconti che poi io e Tiziano ci leggiamo in sessioni separate. Quindi la risposta è no, leggiamo tutto. Margherita non fa questo filtro, altrimenti non sopravviverebbe, visto che fa anche altri due o tre programmi. Il mio eroe è Franco Carraro di Radio Gamma 5. Che non so chi sia, però già il nome e il nome della radio mi piacciono. Il mio eroe è Pippo Inzaghi, il mio eroe è Simon Wiesenthal, e poi grazie per dirci il Buddha è grasso, Churchill è il mio eroe. Vecchio, brutto e alcolizzato, ha tenuto testa all'astemio e vegetariano Hitler. Carlo, e poi niente, messaggio fuori contesto. Caro Barisoni, vogliamo vedere un po' cosa fa la Consob a tutela dei piccoli risparmiatori? Non sono Barisoni, anzi a differenza mia, lui è alto, bello ed è eroico. Grazie a lui, grazie a Stefano D'Andrea, Paolino Corleoni, Tiziano Bonini e a Margherita Hina. La storia di oggi era la storia di Maddalena, parlava della bellezza e degli eroi. Quella di domani è di Otello e parla della vita sedentaria. E così ogni mattina che passo davanti a quella barca, a non solo aria, mi immagino al suo timone mentre affronto gli oceani. Proprio io, che non capisco nulla di vela o di barca in genere. Arrivavo in ufficio contento, pensando che comunque anche non solo aria avrà avuto la sua carriera alle spalle. Chissà quanti viaggi e in quanti luoghi sarà stata. Ora invece è lì, anche lei, come me, ferma e immobile.